Non cantiamo ancora vittoria, come già abbiamo detto fino adesso, però penso che possiamo essere contenti e soddisfatti. Quando ormai molti anni fa abbiamo iniziato a dar vita ai comitati, con il comitato di lotta popolare, tutti gli altri comitati che sono nati, non ci saremmo mai aspettati tutto questo. Ed oggi è questa la realtà. Oggi, in ogni caso, comunque vadano le cose, a costo che dovremo ancora battagliare, oggi ha vinto la Val di Susa, oggi hanno vinto i valsusini, oggi abbiamo vinto tutti insieme. Non ci sono professionisti, non ci sono leader, non ci sono capi. Qui tutte le facce che vedo, tutti quelli che stanno alle barricate, in Val di Susa ormai fare una barricata è una roba normale, siamo tutti capaci ormai a fare barricate. Oggi ha vinto la lotta, ha vinto la nostra lotta, a dimostrazione di come questo mondo nella realtà faccia schifo, ma come ci sia la possibilità di vincere. E noi abbiamo dimostrato questo, che i tavoli della politica malsana non vanno da nessuna parte, la lotta costringe a fare queste cose. Ed oggi la Val di Susa, noi tutto quello che abbiamo fatto è stato mettere a disposizione di tutti la nostra esperienza, le nostre capacità, capendo, venendo qua, imparando e diventando valsusino una volta in più. Oggi abbiamo vinto per adesso e abbiamo vinto per tutti i martiri partigiani a cui ci ispiriamo. È nel nome loro che marceremo su Venaus cantando.